Sei su Radio Wombat. Yuhu, buonasera, siete su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. E loro che avete ascoltato erano i Minutemen, il brano Tension tratto da The Punchline del 1981, il primo LP, ovviamente che uscì per la mitica e storica SST. Abbiamo fatto ascoltare questo pezzo perché stasera presentiamo uno split insieme a Federico Fragasso, che era già venuto qua due volte in passato come membro dei Caveras e anche come boss dell'etichetta, della sua etichetta, la Ursuoni, e appunto è venuto qua stasera a presentare lo split, l'ultima cosa che ha suonato e che ha anche prodotto insieme a una catena di altre etichette, poi ne diremo, questo split che si chiama di Arabia Saudagi e Caveras, intitolato Split LP, perché proprio alla buona un lato, su vinile, ricordiamolo, quante copie? 200 copie, un lato Caveras, con la copertina Caveras, un lato Arabia Saudage. In realtà abbiamo tutti e due i nostri titoli. Ogni lato ha un suo titolo, sì. Però verrà catalogato su Discogs come Split LP, credo. Comunque sì, ogni lato ha un suo nome. Arabia Saudage si chiama Le Petit Senigallia e i Caveras è De Volta a Libertad, spero di pronunciare corretto. Di Volta a Libertad. Uguale. Ok, ecco, allora, ciao Federico, che anche se hai già parlato un po', spiegaci un po' questo split, come è accaduto, il perché, il per come, insomma, un po' di robetta, via si dirà, cose importanti. Allora, dunque, lo split è accaduto perché era la forza del destino, cioè non so se esistono altri gruppi punk in Italia che cantano in portoghese, a parte gli Arabia Saudagi e Caveras, quindi bastava già questo. Con Giuseppe degli Arabia Saudagi, insomma, c'è un'amicizia che va avanti da un po', e più o meno nello stesso periodo, un po' inconsapevolmente l'uno rispetto all'altro, abbiamo avviato rispettivamente questi due progetti e quindi a un certo punto ci è sembrato naturale. Quando noi stavamo registrando delle nuove cose, mi è capitato di sentirlo, lui mi ha detto che stava a sua volta registrando delle nuove cose e che volevano registrare un LP one-sided, e io gli ho detto, facciamo un LP normale, facciamo uno split a questo punto, e così infatti, è stato. Infatti, c'era nella presentazione molto carina, avete scritto che siete due gruppi separati da circa 300 km di autostrada, quindi gli Arabia Saudage sono proprio di Senigallia, se non sbaglio. Dall'altra parte, di Milano. Ah, ecco, perfetto. Giuseppe, ero convinto che erano del lato. Giuseppe è pugliese di Bari, per cui da qui poi non, cioè, non so che cazzo di connessione abbia con Senigallia, però. Infatti. Ma forse si sono divertiti o sono stati malissimo lì. Chi lo sa, chi lo sa. Io so che il loro titolo viene dal fatto che c'è questo ristorante che si chiama Le Petit Sì. Senegal, e quindi c'è stata la storpiatura con la nota località marittima. Bah, sì, no, loro sono di Milano, cioè loro tre sono stanziati a Milano e quindi sono circa 300 km di autostrada da Firenze, effettivamente. Ok, intanto facciamo sentire il pezzo, poi ne parliamo un po' con le varie influenze o insomma con una serie di collegamenti nostri spazio-temporali, diciamo. Allora, faccio sentire le Petite Senigallia, sì, buona. Sì, Arabia Saudade, le Petite Senigallia, che è il brano di apertura del lato, di uno dei due lati dello spit. Che si chiama anche Le Petite Senigallia, proprio come nome del disco, del lato, diciamo. Buon ascolto. Arabia Saudade, il primo pezzo dello split insieme a Caveras, che si chiama Le Petite Senigallia, il brano e anche il mezzo disco, diciamo. Si diceva prima, quindi insomma, parlano, cantano in portoghese pure loro, e te mi hai detto che si vantano di una bella, di una cosa molto particolare. Beh, sì, che fanno i testi con Google Translate, cioè scrivi in italiano e poi li Lo traduci con trovo Google Translate. geniale. Chissà un brasiliano, un portoghese cosa capisce, tipo. No, infatti è curioso perché chissà qual è l'effetto che viene fuori per un madrelingua. Insomma, ascoltando il brano, appunto, ci ho ritrovato tantissimo dei Minutemen, ovviamente, di quel tipo di punk anche un po' californiano, e forse anche il fatto che si chiami Le Petizioni Gallia. Forse volevano ricordare anche il mare, qualcosa del genere, la California, non lo so. Sì, è un'influenza dichiarata apertamente quella dei Minutemen. Anzi, guarda, mi capitava di parlarci quando siamo andati a suonare su a Monza, che siamo stati da Giuseppe, e si parlava proprio dei Minutemen, e lui mi ha detto: io quando ho ascoltato i Minutemen la prima volta, cioè mi sono detto, ah, ma sta tutto qua, cioè tutte le cose che cercavo in vari progetti musicali, qualcuno c'aveva questo, qualcuno c'aveva quello. Li ho trovati tutti Una concentrati nei cosa Minutemen. lì, che insomma è difficile, però. E tra l'altro, il brano scaletta che ora facciamo ascoltare è del gruppo Post Minutemen, che sono i Fire Rose. Non so se li conosci. Yes. Praticamente, dopo la morte, purtroppo la tragica morte di Boone, alla voce e la chitarra, ovviamente. Il chitarrista dei Fire, di quelli che poi furono i Fire Rose, che si chiama Ed Crawford, riuscì a convincere Mike Watt, che era veramente un amico e quasi un fratello di Boone, a riprendere il basso e riniziare a suonare. E così fecero, sfruttando il vecchio batterista, quello dei Minutemen, e facendo un sacco di bei dischi, soprattutto per me i primi tre, come Fire Rose. Il pezzo che ora ci ascoltiamo, anche appunto per rimanere un po' in tema col brano che abbiamo sentito prima, è tratto da From Ohio, che è il terzo disco del 1989, sempre per SST. Poi dopo firmarono anche per qualche major, se non sbaglio. Comunque, almeno i primi tre erano bellissimi per SST, e si chiama il brano In My Mind. Dicevi poco fa, mentre si ascoltava questo brano, che Giuseppe è fissato con i Minutemen e il suo idolo è Mike Watt. E cosa gli è successo? Cosa è capitato? Mi hai raccontato un aneddoto bellissimo, tra l'altro. Ma sì, praticamente un paio d'anni fa, se non sbaglio, si è sposato Giuseppe e Mike Watt è andato a suonare al suo matrimonio. Pensa te. Insomma, penso che ci sia una conoscenza virtuale e poi da un certo punto in poi anche Umana. fisica, sì, umana. Dice che facevano le cover degli Stooges, anche con Alessia, la sposa, tutta sbronza che suonava. Beh, un bel regalo di matrimonio, cavolo, Sì, cioè bellissimo, bellissimo. sono quasi. Io purtroppo mi sono sposato in gran segreto. Beh, nessuno ha invitato Mark Stewart dei Pop Group al mio matrimonio, quindi. Ah no, neanche, non lo stai neanche chiedendo via radio perché ormai l'hai già Ah, me lo fatto. potete comunque fare come regalo, Come sì, che infatti, cioè, sappiate così questo. un'occasione la si trova. Un benefit. Però, va bene. Sì, tra l'altro altre persone hanno conosciuto Mike Watt, hanno detto tutti con un mega tranquillone. E sì, cioè, secondo me quei personaggi old school di una volta che non esistono praticamente più, dai quali bisogna secondo me solo imparare. Comunque, ascoltando il brano Fai Rose. degli Arabia Saudasi, diciamo, ho ritrovato anche un altro paio di band che secondo me ci potevano stare, perché comunque questa è una trasmissione fondamentalmente di musica, quindi vi vogliamo far ascoltare robe che vi aprano a più, diciamo, dinamiche e a più gruppi e situazioni possibili. Rimaniamo sempre in America, in questo caso, come erano americani, appunto i Fairrose e i Minutemen, ovviamente con Joe Spencer, un brano di Joe Spencer Blues Explosion, che ascoltate tanto tempo fa, e quando ho ascoltato questi brani mi è proprio venuto in testa il pezzo famoso Bell Bottoms, che è tratto da Orange, che uscì per la Matador nel 1994. Insomma, Joe Spencer Blues Explosion faceva parte di questo alternative rock molto blues che negli anni 90, diciamo, andava molto anche nelle roccoteche, diciamo. Però non mi ricordo se è proprio questo Ha pezzo. suonato Comunque, da poco qui a Firenze. sì, è ancora attivo, vive e vegeto. Non sono mai riuscito a vederlo al vivo, secondo me deve essere pure bello da vedere. Adesso. Guarda, io lo beccai a, cos'era, l'edizione 2011 del Primavera, però Ah, c'erano gli Swans in contemporanea, ho visto gli hai visto gli Swans. Swans? Forse è fatto bene. Cioè, poi sono scelte molto dure da fare, però insomma, sapendo che Joe Spencer poi capita spesso a Firenze perché è venuto varie volte nel corso degli anni, insomma, ho preferito gli Swans. Va bene, ascoltiamoci lui con la sua band, che mi pare siano un trio. Il pezzo è Bell Bottom, secondo me è bello sguaiato. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms. Insomma, vi definireste entrambi i gruppi come punk, anche oltre ad altri tipi di, diciamo, pseudo etichettine di genere? Assolutamente sì. Io quando sento... No, si sente spesso la gente che parla che ti dice io vengo dal punk. Ma io non è che vengo, cioè io sono ancora lì, nel senso non mi sono mai mosso. Sì, sì, sì. No, è che ritrovavo un po', appunto, cioè c'è una forte componente punk all'interno dei brani, dei vostri, così come degli Arabia Saudade, che sono, secondo me, la parte convincente poi di entrambi i progetti, cioè il fatto di essere anche cattivi e sregolati, almeno all'interno dei brani, insomma. Sai cos'è la cosa bella dell'etichetta punk? Che è l'etichetta meno vincolante del mondo. Punk è un mezzo più che un fine, certo, nella mia concezione delle cose. Certo. Sì, sì, sì. Che dici, mandiamo un altro pezzo di Arabia Saudade, che abbiamo scelto A Danza do Telegrafo. Non so come mai l'abbiano chiamata così, tu lo sai per caso? No, non lo so, anche perché non mi ha mai mandato i testi, Giuseppe. Quindi non so di cosa, cioè, ogni tanto erano tradotti con Google Translate. Ogni tanto ci provo ad ascoltare, a fare attenzione a cosa dice, però non ho ben capito. Vabbè. E... l'unica cosa che mi è rimasta è stavamo perdendo tempo nella canzone grande successo. Stavamo perdendo tempo. E noi ora ascoltiamo proprio quel brano lì, Arabe Saudade, A Danza do Telégrafo. Arabia Saudade, ovvero come fondere insieme musica medio orientale, musica brasiliana attraverso, appunto, si diceva, queste ritmiche di svariate percussioni che si chiamano batucada, mi dicevi, e anche la West Coast americana, quindi insomma prende due terzi del pianeta, diciamo, a parte l'Oriente, il Giappone, tipo, prende un po' tutto. Musica quartomondista. Quartomondista. Bella come definizione. Musica quartomondista. Io allora, prima di prepararsi all'altro lato dello split con i Caveras, vi faccio sentire l'ultimo gruppo sempre americano che ci stava con tutta la parte dedicata agli Arabia Saudade, che sono gli All Time Religion, che anche loro erano un gruppo attivo negli anni 90, erano abbastanza, diciamo, marci ma freschi, ecco, che era il gruppo poi di chi, il più famoso del trio è Harrington De Dioniso, che poi ha pubblicato anche cose da solo, che è un pazzo scatenato, così come potete sentire nell'utilizzo della voce e anche della chitarra, perché faceva entrambe le cose, comandava appunto negli anni 90 questi power trio, non era un power trio, erano questi sul finire mi sembra ci fosse un percussionista sassofonista, okay. Anche comunque loro incredibili, cioè uno delle migliori espressioni veramente della musica degli anni recenti. Si sono riformati, cioè, o meglio Non so se si siano mai sciolti, ma hanno pubblicato da poco un disco nuovo. No, so che almeno Harrington De Dioniso fa altre cose, anche tra l'altro con un fiorentino, un batterista, Jacopo Andreini, fanno tutt'altre cose, credo più sempre sulla world music, su cose tradizionali, che non ho ancora ascoltato. Tra sì, lui è fissato con la roba indonesiana, faccio questo progetto Malaikat Dancing, mi sembra si pronuncia, che è tutto di musica indonesiana trascendentale, no? Bello, grande, un bel personaggio lui. Quindi, però noi ora vi facciamo sentire il classico dei classici suo, Old Time Religion, che il brano si chiama Casino, non lo so. Casino! È tratto da un disco che si chiama Le Sirene di Pecera, per K Records, che è un'etichetta che fece un sacco di dischi degli Old Time Religion. E anche lui con le lingue, questa canta in spagnolo, nello stesso disco c'è un pezzo in portoghese e uno in italiano. Ma infatti, cioè, che è epico, carcerato, cioè ce l'hai presente? Sì, mi sa che è il pezzo dopo, mi ricordo. E comunque la cosa buffa è che alcuni brani stasera non li abbiamo decisi insieme, per cui insomma questo qui, cioè, soprattutto la prima parte, queste cose vi sto facendo sentire, le ho tirate fuori proprio ascoltando lo split. Secondo me, cioè, i riferimenti per me, almeno miei, erano questi. È bello anche ritrovare dei punti in comune con, c'hai orecchio, con chi ha suonato. Beh, dai, non lo so se c'ho orecchio, però cioè, un certo tipo di Weltanschauung, no? di atmosfera, l'ho trovato, vi ho capito più che altro, più che... Bene, questo è importante. Mi ho capito. Comunque, Old Time Religion, Casino, e poi passiamo a altre cose più cupe. Buon ascolto. We'll be right back. insomma, stanno risuonando gli Ultimate Religion. Chissà se verranno a Firenze. Chissà, chissà, forse in futuro. Chissà. E, ok, ora parliamo un po' così brusco dagli Ultimate Religion ai Caveiras. Parliamo un po' di voi e appunto dell'altro lato del vinile. Cioè, la prima cosa che vedi è che gli Arabia Saudaggi hanno tipo 9 pezzi, che sono molto corti, e voi solo 3, però a minutaggio siamo sempre lì, insomma. Sì, sì. E, insomma, dimmi un po', anche il titolo che avete scelto, che sai pronunciare bene te, che in italiano significa Ritorno alla libertà. Sì, è un titolo un po' ironico, un po' speranzoso, nel senso che Liberdade, che vuol dire libertà, è il nome di un quartiere di San Paolo, che dovrebbe essere un po' l'emblema del multiculturalismo, perché è il quartiere dove insomma storicamente è stanziata tutta la comunità asiatica, in special modo giapponese di San Paolo, che a San Paolo c'è una comunità giapponese enorme, cioè la più grande fuori dal Giappone, tanto per capirsi. Però ho scoperto che praticamente nel XIX secolo e anche XVIII, insomma, il quartiere di Liberdade era la sede della forca cittadina. Quindi, diciamo, questa congiuntura di eventi mi ha fatto pensare che appunto il significato, cioè la parola libertà, insomma, è passibile di interpretazioni varie. E infatti di questi tempi, ahimè, spesso viene interpretata nella maniera più cupa possibile. Politicamente, cioè, l'abbiamo visto tutti che c'è stata una bella sterzata a destra nell'ultimo periodo in Brasile, in maniera particolarmente evidente, visto che c'è un presidente che vuole far commemorare la data del colpo di Stato del 64. Ma insomma, anche noi nel nostro piccolo, sì, la manifestazione, ci difendiamo bene. Tant'è che giustamente con Giuseppe, che è di Bari, anch'io sono mezzo di Bari, si diceva che Libertà è anche un quartiere di Bari dove in questo momento si gioca proprio la partita del multiculturalismo, perché è il quartiere dove ci sono state le manifestazioni di Forza Nuova e Casa Pound di supporto alla Lega, dove hanno menato un sacco di gente, insomma. Libertà, ritorna questo termine. Mai capito, ho capito sempre troppo poco e male, diciamo. Intanto facciamo ascoltare il brano, che dici? Poi se ne parla via via. Si chiama, è il primo dei tre. Ah, tra l'altro è una cosa importante da dire, che i tre brani in realtà sono cover, giusto? Sì, noi finora abbiamo sempre formalmente fatto delle cover, nel senso che quel che facciamo noi fondamentalmente è prendere dei testi e costruirci intorno una musica. Dei testi che, insomma, a sensibilità mia sono particolarmente importanti, sono canzoni brasiliane a cui sono molto legato, però fondamentalmente manteniamo quello e poi la musica è nostra. Panis e Circensis, in particolare in questo EP, tutti e tre i pezzi sono testi che hanno a che fare appunto con il concetto di libertà e con la soppressione della libertà. Panis et Circensis è un testo che scrisse Caetano Veloso, che era politicizzatissimo negli anni, insomma. Sì, ed è proprio un testo che, cercando di, diciamo, sviare la censura, non è esplicito al 100%, ma praticamente dipinge diciamo un atto d'accusa contro la borghesia brasiliana, che ha fatto finta di guardare dall'altra parte e certo, non ha accolto le istanze di cambiamento che venivano in quel momento dalla società, e ha preferito rivolgersi alla, appunto, alla dittatura, un po' come poi era successo anche in Italia. Tutti i fascismi funzionano così, allo stesso modo. E Pans et Circenses, infatti, è una storpiatura del detto latino panem et circenses, che vuol dire che se alla plebe gli dai da mangiare e la distrai con i giochi del circo, stai a posto e puoi fare che cazzo vuoi. Praticamente è così. Salvini, Selfini. Insomma, lo split quindi acquista anche un valore anche, diciamo, politico non indifferente, nel senso non è vuoto neanche di concetti, anche se vi può sembrare buffa la cosa della musica brasiliana, viene sempre assimilata come una cosa da danzare, buffa per gli occidentali, per chi non ne sa niente. In realtà è piena di storia e di ribellione proprio sui governi del tempo, anche dal punto di vista della canzone. Via, ascoltiamolo, vai. Ok? Dice, vai. Panes et Circenses, Caveiras, dall'EP nuovo, con il titolo difficilissimo, dal vinile, diciamo, un lato su due del vinile, che si chiama... Di volta a Liberdade. Bravo, grazie, sempre. Drink. Questa era Panis et Circensis di dei Caveiras, la prima traccia dello split EP insieme agli Arabia Saudagi. E quando l'ho ascoltato mi è sembrato un po' diverso dal lavoro precedente, è sembrato molto più rabbioso ma allo stesso tempo più minimale e un pochino più lento, cerimonioso diciamo. Sì, più cattivo in realtà, più scuro. Non so se era quello che volevate anche ottenere, appunto, come mi dicevi anche dal perché di questi tre brani messi insieme. Beh, ci sta che l'argomento abbia portato a un'incazzatura di fondo abbastanza forte. Le differenze con l'EP precedente sono anche molto date dal fatto che Sidagi Occultal noi l'abbiamo registrato in duo e quindi necessariamente a forza di sovraincisioni e insomma registrazioni acrobatiche, perché chiaramente non era possibile suonare tutto contemporaneamente insieme, quindi è stato un album molto più assemblato. Okay, sì. E questo invece l'abbiamo registrato praticamente tutto dal vivo, in presa diretta, in tre, e quindi suona anche più fluido, insomma, sono pezzi più lunghi, più basati su improvvisazioni, praticamente non ci sono sovraincisioni, pochissime. Mi ricorda molto quando suonaste l'anno scorso al Next Emerson a Firenze, che vi ho riconosciuto più da questi pezzi che dagli altri, anche se magari avevate fatto i pezzi dell'altro disco, però come pacca mi sembrava più vicina a questa produzione. Sì, questi sono molto più simili a come poi suoniamo dal vivo, di sicuro. Io mi ricordo proprio un bel concerto, si sentiva anche bene, perché con dei suoni messi bene. Tu forse, io non avevo la spia. Fuori mi ricordo che senza niente di acustico ti assicuro che non è facile. sì, no, lo so bene, insomma. E vi volevo ricordarvi che insomma il vinile, che può essere comprato dove? Ma come sempre succede al giorno d'oggi, soprattutto ai concerti. Dei Caveiras e degli Arabia Saudagi. Dopodiché, chiaramente, nelle distro delle varie etichette coinvolte, che sono la Ursuoni, esatto, la Lepers Productions, la General Sorness di Perugia, Santa Valvola di Prato, Caspar House e la portoghese Experimentaculo Records. Quindi è bello che c'è proprio un'etichetta anche non italiana che supporta questo tipo di lavoro, insomma. Senti, ci avevo trovato un po' di cose, ovviamente, anche lì ci siamo un po' trovati su alcune scelte in scaletta. Il primo un po' brano che vi metto, un po' per rimanere nell'onda dei Caveiras, è dei Liquid, si chiama Optimo, che è una delle primissime cose che fecero, se non sbaglio. E tra l'altro loro, mi sa, di LP non hanno fatto praticamente niente. No, forse penso abbiano tre EP anche loro. I Liquid, che erano un gruppo di New York, che anche loro erano fissati, diciamo, anticipatori, ma nel post-punk appunto è facile ritrovare anche questa componente in alcune band. Di world music, diciamo, e di cose, di ritmi differenti da quelli, in questo caso inglesi, ma proprio cose che riguardano altri tipi di folklore, diciamo. Intanto ve lo metto, Liquid Optimo. Beh, Liquid Liquid, ovviamente sì, ci risentiamo tante cose, anche dei Caveras. Ora dell'83, mi dicevi prima, mentre si ascoltava il gruppo, che proprio ha una formazione anche simile alla vostra, giusto? Sì, non hanno chitarra e erano due percussionisti, un bassista e un cantante percussionista, quindi insomma siamo lì. E qui venivano dalla no wave newyorkese, se non sbaglio. Sì, che è un po' giro era un po' quello. Che è un po' assimilabile alla scena post-punk inglese, anche se è venuta, mi pare, un attimino più tardi rispetto al post-punk, ma insomma è inglese, ma insomma sono quelli, sono dettagli un po' che lasciano il tempo che trovano. E poi c'era un altro gruppo che ci piaceva farvi ascoltare, un bellissimo gruppo, i Public Image Limited, che tutti dicono che è il gruppo del... Invece sono molto più belli dei Sex Pistols. Sì, molto, ma molto più belli. Secondo me è il gruppo serio di Johnny Rotten, diciamo, che era affiancato... da Keith Levine e esatto, Joe Wobble. Joe Wobble al basso, e tra l'altro... E Martin Atkins alla batteria. La batteria che ha suonato pure con mezzi ministri e Killing Joke con tutti. Praticamente l'importanza, cioè in realtà già ai tempi dei Sex Pistols, Johnny Rotten usciva con John Wobble, mi pare. Questo lo diceva lui in un'intervista a una radio, che si mise a nudo e fece ascoltare solo pezzi reggae e pezzi di musica classica, facendo rimanere male tutti che si aspettavano le solite cacchiate e i proclama. E i Can e Capitan Beefheart. Esatto. E, praticamente nella Londra dei tempi, gli unici posti dove trovavi birre, alcol a poco e stavano aperti fino a tardissimo, quindi roba insomma veramente per proletari, era le serate reggae, per cui loro ci andavano spesso e hanno imparato, gli insegnarono proprio al bassista a suonare come si fa a suonare il basso reggae, quindi anche dub, ovvero corde sporchissime e volume a manetta, tanto le devi appena toccare fondamentalmente. Quindi, insomma, questo per dirvi che i Public Image, secondo me, erano il gruppo vero, è sempre stato il gruppo vero di Johnny Rotten, e almeno i primi tre dischi sono fantastici. Imprescindibili. Imprescindibili, cioè tutti li devono ascoltare. Il terzo, tra l'altro, è praticamente anche lì chitarra quasi zero, parecchio batteria. Solo percussione. Sì, parecchio percussione, batteria e voce. Noi invece vi facciamo ascoltare un pezzo tratto dal secondo, che insomma è altrettanto bello, anzi per la critica ufficiale forse narrano sia il più bello, che si chiamava Metal Box, perché ai tempi era veniva venduto, visto che comunque era prodotto dalla Virgin, quindi i soldi giravano, veniva venduto con all'interno di questa scatola di metallo. Poi in seguito è diventato Public Image Limited, basta. Second edition, esatto. Vi facciamo ascoltare questo pezzo, che devo caricare, che si chiama Carrying. Ora ve lo metto. E insomma qui ci sono degli elementi dub che secondo me si ritrovano anche nel vostro trittico di brani dello Split. Confermo. Yeah. che poi ti ho brutalmente censurato mentre stavi dicendo una cosa a proposito del dub come componente anche nei vostri tre brani dello split, ma non so se era riferito a quello. Ah, sì, no, sì, ti confermavo che effettivamente i Public Image sono una dichiarata influenza e che sicuramente il dub come forma musicale è una delle componenti fondamentali del progetto Caveiras, ma è chiaramente appunto un dub molto più debitore di gruppi come i Public Image Limited che non il dub giamaicano, perché sì, è un dub virato un po' industriale, un po' su quei lidi lì, ecco. Certo. No, infatti non c'ha più molto di reggae. È vero. Però, insomma, questa cosa dell'espansione dei neuroni che vanno da qualche parte quando ascolti il dub, diciamo, di rimando o di sperimentazione dal post-punk in poi, insomma. Un altro gruppo che di dub ce ne metteva tanto erano appunto anche i pop group. Anche il brano che vi mettiamo è del 79, tratto dal primo disco, che si chiama Y, come il brano di Public Image, sono usciti lo stesso anno. È stato un bell'anno quello. Dicendo prima che volevi, il tuo desiderio sarebbe portare Mark Stewart al tuo matrimonio, che è già successo. Mi sa che ti piacciono tanto, insomma. Mark Stewart, allora, come Giuseppe c'ha una frequentazione virtuale con Mike Watt, io c'ho una frequentazione virtuale con Mark Stewart da qualche anno. Ma Mark Stewart, cioè, è la persona che io più o meno cerco di imitare da che ho iniziato a fare musica. Cioè, l'emulo di Mark Stewart, che dirti. Fisicamente di non gli assomigli. No, mi mancano diversi centimetri, ma sì, no, però guarda, cioè, che ti posso dire di più? Senti, però io non t'ho visto, quando hanno suonato a Chiusi non c'eri. No, è vero, ma perché non ero qui? Tra l'altro, cioè, io non li ho mai visti i pop group. Ah, nemmeno io. E li vidi per l'ultimo disco che si chiama, me l'ero segnato, Honeymoon... On Mars. E tra l'altro, cioè, quando l'ho sentito, cioè, l'ho comprato lì al concerto, no? Come si fa per i dischi dei gruppi, tra virgolette, più piccoli. Perché secondo me i pezzi che hanno fatto erano troppo belli. Ma proprio belli belli parecchio, è molto più elettronico, diciamo, come cosa, però poi ho letto che il produttore dell'ultimo disco è lo stesso del primo, capito? Il giochino. Ah, Dennis Bovell, sì, sì, sì, sì. Che per l'appunto era un produttore dub, inglese, sì. Ma comunque di roba dub. C'era un sacco di dub, poi c'era un sacco di effetti, quintali di effetti alla voce, ma una roba... Guarda, cioè... C'è anche, sai chi a produrre l'ultimo disco insieme a Dennis Bovell? Hank Shockley, che è quello che faceva le basi per i Public Enemy. Ah, non lo sapevo. Ho detto tutto. Sì, infatti sono parecchie basi, però insomma sopra ci suonavano e ci cantava una miriade di effetti, una distruzione proprio. Comunque ora ve li facciamo. Tra l'altro bellissima anche la carriera solista di Mark Stewart. Sì, sì, cioè sempre all'avanguardia. E bellissimi tutti i gruppi, di tutti i membri dei pop group, quando sono sciolti i pop group, perché Rip Riggan, Panic, allora, incredibili. Non li conosco. Maximum Joy, incredibili. Tutti belli. E... quegli altri con Adrian Sherwood, come cazzo si chiamavano? Vabbè, ce n'era un altro che era propriamente dabbone con Adrian Sherwood che faceva le basi e Mark Stewart e Riap. Mark Stewart, sì, sì. Era un e vari che cantavano. Tutti progetti belli. Sì, anche lì uno ci farebbe veramente una puntata di 2 ore almeno su tutte queste cose, questi progetti, sottoprogetti di Mark Stewart e altri dei pop group che sono... cose mozzafiato, diciamo. Comunque, se vi abbiamo incuriosito, vi mettiamo appunto un pezzo del 79 del primo disco dei pop group che si chiama Y. Il brano si chiama We Are Time. E anche qui qui ci potete trovare sia i Caveiras che anche l'Arabia Saudita. Ci trovate tutto perché Perché c'era tutto nella perché musica dei Pop Group. Infatti, buon ascolto. We'll be right back. grandissimi pop group con We Are Time. E, vi ricordo che siete su Radio Wombat e queste 8 Hertz. Guardatevi il palinsesto che trovate sul sito wombat.noblogs.org. Sentiteci se avete la possibilità in onde AM alla frequenza 1359 nell'area fiorentina. Poi ci sono delle notizie via via che vengono date su Twitter e su Facebook, ma la cosa più importante rimane il sito. Nel palinsesto c'è una trasmissione nuova che si chiama Sessioni Notturne, che finalmente parla di rap e hip hop, che dai tempi di Mortal Kombat, da quando hanno smesso di fare la trasmissione, mancava una vera e propria trasmissione su appunto questo movimento e genere, per cui stanno andando anche bene. E poi c'è insomma tutti i soliti programmi. Ora stasera non ne parliamo troppo perché abbiamo ancora un po' di cosette da dire, se no ci dura troppo e il mastro della regia ci taglia le mani e le gambe e anche la lingua più che altro. E, però è stato bello questo giro, questa sera, parlare con Federico e far ascoltare delle influenze diverse da quello che era stato fatto ascoltare nelle altre puntate, che erano tutte improntate proprio sulla musica brasiliana. Adesso però ci ritorniamo un po', facendo sentire, ricordando anche, oppure chi non ha potuto sentire la trasmissione o per qualche motivo non ha sentito il podcast, facciamo sentire qualcosa di brasiliano che ha influenzato appunto la scelta stilistica dei Caveras e anche dell'altro gruppo, di Arabia Saudade, che a volte sono sti lapsus, sarà la verità. Insomma, il primo che vi mettiamo si chiamano perché è un gruppo di sole donne, le Mercenarias, che anche loro fecero un paio di dischi, se non sbaglio. Sì. E il primo è dell'86, che si chiama Cadeas Armas. Bravo. Dove sono le armi? E noi abbiamo scelto un pezzo, anzi Federico ha scelto un pezzo che si chiama Santa Igreja. Igreja non ce l'hanno. Sarebbe loro. Spagnolo. Sarebbe spagnolo. C'è versi. Che però in realtà spagnolo è Iglesia, se dobbiamo dirla tutta. Però se in spagnolo la J si leggerebbe in portoghese no. Dobbiamo chiedere all'Accademia della Brusca. Mercenarias. Santa Igreja. questo era il punk proprio degli anni 80 dei Mercenarias. E ne abbiamo messi anche perché mi ricordo la volta scorsa si mise un altro brano che si chiama Polizia, che era in una raccolta che è stata un po', che è un po' la fonte per gli europei di queste band degli anni 80 brasiliane, che si chiama Now Wave, no? Giusto? E c'era, se non sbaglio, questo pezzo, me lo confermi, no? E io si dissi che l'avremmo fatto. Infatti, voi te dicesti, sì, mi sa che lo facciamo, e infatti nello split c'è la vostra versione, ovviamente diversissima, di Polizia. Intanto che dice, lo mettiamo, vai. Mettiamolo. Quem tava com a carga? Quem tava com a carga? Não sei não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ele é estudante. Ele é aqui, estudante. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu. Você viu. Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. Fala. Fala. Quem matou? Foi um de vocês. Vocês o caralho. Um de vocês é o caralho. Quem matou esse cara aqui foi você, seu fiado. É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro, seu merda. Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please Questa era Polizia dei Caveiras in versione batucata, si può dire? Più... Sì, sì, un po' più... è più sambistica, sì. Ma infatti, come ti dissi l'altra volta, il pezzo delle Mercenarias è abbastanza un punk funk, insomma, un po' tipico di quegli anni, è molto a dritto, dura nemmeno un minuto, penso. Sì. E io però ti dissi, nella voce c'era già questo andamento sambistico che poi noi abbiamo esaltato, espanso, certo. Sì. Guarda, Mercenarias sono un gruppo che a me mi colpì molto quando uscì questa compilation. Cioè di sicuro abbiamo mutuato molto anche il lato dell'incazzatura politica, perché insomma diversi testi, per dire Santa Egregia parla della Chiesa, che in Brasile, come in tutti i paesi dove c'è un alto grado di povertà, è un cancro ancora peggiore che nei paesi sviluppati, perché chiaramente va a far presa su maggiore popolo, ignoranza, su maggiori bisogni, eccetera, eccetera. Quindi appunto poi il testo dice un po' questo, dice il giovane che cresce e si ribella, cosciente dei suoi diritti, poi incontra la Santa Chiesa e da quel momento impara a seguire le sue leggi. Polizia è un atto di accusa contro la polizia, perché fondamentalmente il testo dice la polizia viene, la polizia va anche quando non è chiamata, insomma. E vabbè, e lì in Brasile gli abusi polizieschi ancora oggi, ma figurati durante la dittatura che cazzo non erano. Quindi poi tutto questo spirito si è un po' infuso in quello che facciamo anche noi, come del resto poi insomma diversi dei gruppi che abbiamo sentito questa sera, anche i pop group, avevano una forte carica critica, di protesta, sì, certo. Insomma. Mi dicevi prima che l'audio che si sente all'inizio, che questo vociare molto duro in portoghese, in brasiliano, insomma, è tratto da un film. Sì, da un film che si chiama Troppa di Elite, Truppa di Elite, che parla delle vicende di alcuni personaggi appartenenti al BOPE, che è il battaglione delle operazioni speciali, insomma la polizia militare brasiliana, che sono dei personaggi poco raccomandabili sicuramente, nel senso che sono quelli che più o meno combattono ad armi pari con i trafficanti nelle favelas, quindi più o meno sono la controparte, cioè sono altrettanto violenti, altrettanto sanguinari e insomma abbastanza sbilanciati sul fascismo come impostazione. Tra l'altro il nome Caveiras ha anche a che fare con il BOPE, perché fra di loro il loro grido di battaglia è Caveira, che vuol dire letteralmente vuol dire teschio, scheletro, e il loro simbolo è un teschio con due pistole e un coltello, per cui cioè, come dire, non sembra una cosa rassicurante. No, noi peraltro l'abbiamo preso questo simbolo e l'abbiamo ribaltato, insomma noi abbiamo fatto il nostro simbolo dei Caveiras, che è lo stesso, è preso proprio da loro, solo che al posto del coltello c'è una bacchetta da batteria, al posto delle pistole ci sono due campanacci e il teschio ha un dente rotto, come a indicare che insomma si è preso una sassata. Però ecco, è indicativo secondo me che un corpo di polizia abbia un simbolo del genere. Senti, grazie della spiegazione approfondita e insomma rende interessante il vinile anche dal punto di vista di quello che racchiudono anche le parole e il perché è stata fatta una scelta del genere sui brani, così come proprio dal punto di vista di estetica dell'immagine del vinile, così come nel CD precedente, e anche il nome, insomma un po' il tutto è tutto, diciamo, ha un perché, ecco. anche abbastanza profondo. Ti volevo fare una domanda sui credits del vinile. C'è scritto questo supportato da Alleanza MP Beat, sì, che non so cosa sia. L'Alleanza MP Beat Desordem e Regresso, poi, no? Sì, sì, è una cosa che ci siamo inventati con, con Giuseppe, nel senso che quando abbiamo cominciato a parlare ormai un paio d'anni fa di questa cosa, che appunto entrambi avevamo dei gruppi che cantavano in portoghese, che erano appassionati di musica brasiliana, e lui ha detto: beh, dobbiamo trovare un'etichetta per questa cosa. E alla fine l'etichetta è stata MP Beat, cioè MPB è l'acronimo di musica popolare brasileira. Okay. E con l'IT alla fine, perché è musica popolare brasileira italiana. Okay. Quindi l'alleanza MP Beat è questa. Okay. Svelato il mistero, insomma. E, come i Guns N' Roses, che avevano sempre Uzi Suicide, bravo, nei loro album, no? Mi sono sempre chiesto che cazzo volesse dire Uzi Suicide. Bello però, cioè, suona bene. Faceva cattivi, faceva. Mi avevi dato da mettere stasera altri brani. Purtroppo non li possiamo mettere tutti, ma ne abbiamo scelti due o tre. Il primo è di Tom Zé, che si chiama Ma. Già ci spiegasti agli ascoltatori che era, insomma, un personaggio molto importante, soprattutto per la scena tropicalia, no? Giusto? Perché mettiamo questo pezzo? Così, cioè, perché... Vabbè, perché Tom Zé è, ma sia per noi che per gli Arabia, è abbastanza un nome tutelare, ed è stato, beh, nel mio caso, diciamo che dopo l'avvicinamento al post-punk brasiliano, che è stato un po' la testa d'ariete per la musica brasiliana, perché tornando indietro, poi dopo c'è stato, subito dopo c'è stato Tom Zé, prima di arrivare a Caetano Veloso, Gilberto Gil, che magari erano forme musicali più tradizionali, più legate al cantautorato. Tom Zé è talmente avanguardista, talmente strano, che comunque era molto più simile alla musica che ascoltavo all'epoca. In Occidente ho letto che è stato conosciuto attraverso David Byrne, che gli pubblicò il disco famoso, quello che dal quale è tratto questo Studando Samba. Questo brano, sì, studiando, l'avrei detto in un altro modo. Sì, lui lavorava alla pompa di benzina all'epoca. Cioè, Tom Zé ha avuto una carriera che, insomma, negli anni, fine anni 60, insieme agli altri tropicalisti, ha avuto per un po' una fase di esposizione, poi ha cominciato a fare dischi fortemente sperimentali, come questo Studando Samba, e dopo questi praticamente è finito nel dimenticatoio, perché non se lo inculava nessuno. E stava effettivamente negli anni 80, lavorava una pompa di benzina, e David Byrne, cercando, a un certo punto gli prese la bomba per la musica brasiliana anche a lui, e un giorno in un negozio cercava dei dischi di samba e vide questo disco che si chiamava Studando Samba, pensando che fosse un disco di samba tradizionale, ma che già dalla copertina era strano, perché un disco con la copertina completamente bianca con del filo spinato. E quando l'ha sentito ha detto: che cazzo è? Cioè, cos'è questa roba? È incredibile. Sì, sì, quindi sì. È andato a ricercare Tom Zé, che incredulo è stato ritirato fuori, e poi ha avuto una seconda fase di carriera a partire dagli anni 90. Buon per lui. E noi ora ce l'andiamo a ascoltare, se va incuriosito. Queste sono sperimentazioni, diciamo, sulla musica tradizionale brasiliana, in particolar modo sulla samba, giusto? Sì, lui ha un uso, cioè, sì, va bene, tutto deriva dal samba, quindi sì. Tom Zé c'ha un uso stranissimo delle percussioni, le fa tutte separate, cioè, nel senso, è come se ogni tamburo suonasse come dire, in un momento preciso, non come se fosse una batteria suonata tutta insieme dalla stessa persona. Raramente si sovrappongono le cose, molto okay. Destrutturato. E ora dai, ascoltiamocelo. Questa è la follia di Tom Zè, con questi pezzi si chiama Ma. Mi spiegavi delle cose buffe di questi fiati, che in realtà non sono fiati ma sono dei campioni fatti con delle scatole, con dei pulsanti. Sì, sì, io mi ricordo di aver visto su YouTube dei pezzi di documentario su come lavorava lui, e si vede appunto che per dire, in questo pezzo lui non canta nemmeno, non c'è Tom Zè che ha la voce, ma dirige una serie di persone, tra cui una serie di persone che gestiscono queste scatole con dei campionatori fatti in casa ante litteram, che appunto poi tirano fuori questi suoni che possono essere trombe o quel che è. Okay, senti, visto che siamo quasi in chiusura, cosa importantissima, con gli Arabia Saudade e i Caveiras siete a giro un po', giusto? Sì, abbiamo fatto un tour per tutto marzo, alcune date diciamo separatamente, alcune insieme, e ora chiuderemo in bellezza in casa, perché appunto questo sabato siamo alla Corte dei Miracoli e domenica siamo a Prato. A Siena, la Corte dei Miracoli. Sì, a Siena, la Corte dei Miracoli, e domenica saremo a Prato, un evento organizzato da Santa Valvola, che appunto è una delle etichette che ha partecipato alla coproduzione del disco, a Officina Giovani. Quindi okay. Sono le ultime due date, diciamo. Sono le ultime. Gli Arabia ne faranno, penso, un'altra a metà aprile, però sì, per noi sono le ultime due date per un po'. Ok. E poi, invece, in quanto capo dell'etichetta, quali sono i progetti in cantiere, se ci sono, per ora, le produzioni stampe? Sì, sì, ci sono, però, però non svegliamo nulla adesso, perché insomma, okay. Per scaramanzia. Comunque ci sono, quindi ci saranno delle, sì, attività. Sì, sì, sì, ma a me piace fare questa cosa, mi piace molto diffondere roba che nessun altro diffonderebbe. Ah, bello, sì, effettivamente. Ascolta, ora c'è quel gruppo che io non ne so niente e che anche il nome è difficile da dire. Akira S e Asgarrotas che e Haram. Chiaro, no? Cioè... Akira S e le ragazze che hanno sbagliato. Ok, ho letto solo che hanno fatto un disco solo, era sempre un gruppo, diciamo, post-punk degli anni Ottanta, no? Sì, sì, sì, belli strani loro, a partire dal nome. li metto. Mettili, perché io non so in realtà dirti molto di più, cioè sono uno dei gruppi di cui non so granché. Ok, il pezzo si chiama O Football. O Football. Che penso sia il football, calcio, no? Sì. Il calcio. Vai. Oggi ho salito dal lavoro in un posto di gasolina, Petrobras e tal. E mai... nós vamos tocar um rock agora. Boa, boa, boa, boa. Alô. Vamos cantar um rock agora, legal, um rock. Futebol. Se você vê naquela casa um monte de gente, por favor não vá em frente, porque tá confusão. Brasil! Come on. Eccoci qua, mi ho messo il pezzo pazzo di Akira S, eccetera. Prima di lasciarvi con l'ultimissimo brano, tra l'altro molto differente da tutto ciò, ma sempre che riguarda appunto la musica brasiliana, vi ricordo, ci sono tantissime cose questo fine settimana e tante altre da dire, siamo già quasi a 2 ore, quindi non ne parlo, così almeno si fa prima. L'unica cosa che vi voglio ricordare è che il 27 e il 28 aprile al Next Emerson a Firenze c'è Brugole e Merletti 2019 e NEMA in Progress. Il NEMA è il museo autogestito dell'Emerson. Praticamente è 1 o 2 giorni di workshop pratici di elettronica, costruzione, autoriparazione, artigianato, idee geniali e arti sottovalutate, live painting, installazione e allestimenti in diretta del nuovo Next Emerson Museo autogestito, il NEMA. 2 giorni per riempire l'Emerson di pittura, scultura, installazione, arti volanti e idee illustrate. L'arte dentro, fuori, attraverso le nostre vite e i nostri muri. Insomma, se scrivete le vostre idee alla mail che trovate sul sito del Next Emerson o al doityourtrash.noblogs.org o al nema.noblogs.org le relative mail, potete mettervi in gioco anche voi e nel 27 e 28 aprile potrete fare quello che più vi pare e piace con l'ottica di Brugole e Merletti, quindi con l'ottica di tutto ciò che vi ho descritto prima. Secondo me è un appuntamento imperdibile, anche molto carino, e sono stato solo purtroppo un'edizione sola e mi sembrava una cosa unica in Toscana, se non anche in Italia, per cui fatevi sentire, scrivete il vostro piano d'azione oppure andate direttamente a vedere la 2 giorni come spettatori, oltre che anziché come costruttori. Ok, siamo alla fine e mettiamo finalmente, che già lo dovevamo mettere in passato, un brano dei Sepultura che si chiama Refuse Resisted. È il primo brano tratto da Chaos AD che uscì per Roadrunner negli anni 90, mi pare, nel 93. E fu il primo di Sepultura che ruppe con il thrash metal o death metal che facevano, più tra virgolette più canonico, e poi canonico non è mai stato, perché già aveva dei, comunque all'interno, una carica diciamo un po' più punk, e con Refuse Resist, con Chaos AD, per la prima volta hanno inserito delle forti componenti di musica brasiliana, e cosa che poi ha influenzato soprattutto l'album dopo, che si chiama Roots, e cosa che poi ha influenzato Max Cavalera, che poi uscì da Sepultura dopo Roots, per fare i Soulfly, che proprio erano ancora più mischiati alla musica tradizionale percussiva brasiliana. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Guarda, per me il primo gruppo brasiliano che ho sentito nella mia vita sono stati Sepultura. Il primo interesse verso il paese, verso insomma tutto quello che poteva offrire, viene assolutamente da qui. Cioè, anzi, già il fatto che fossero brasiliani era un motivo di interesse abbastanza forte, perché nel panorama thrash metal erano tutti... C'erano anche i Sarcofago, non erano brasiliani. I Sarcofago sì, sono brasiliani, ma chi cazzo li conosceva i Sarcofago a 16 anni? Cioè, i Sepultura erano famosi, e questo è un disco... incredibile. Sono molto più legato a questo che a Roots, anch'io, perché sì. Nell'adolescenza ho ascoltato prima questo e molto di più questo. Esatto. E quindi alla fine, insomma... Poi sarà appunto l'accenno al tribalismo brasiliano, qui appunto era proprio un accenno, ma quando entrava era perfetto. Sì, sì, sì. No, dopo invece hanno fatto proprio quasi un marchio... di fabbrica e a volte rischiava di essere un pochino più pacchiano, comunque di cose brutte Sepultura hanno fatte poche, diciamo, però ecco, qui era tutto più, diciamo, coerente. Misurato. Ma guarda, ti dico una cosa, l'omaggio ai Sepultura è talmente forte che, cioè, questo brano, la prossima volta fate un pezzo di Sepultura. Questo brano si chiama, guarda, è uscita una recensione dello Split su The New Noise, che per il Panis e Circenses diceva che sembrava di sentire dei Sepultura più etnici senza chitarra, e Giuseppe mi scrive e fa: non me l'aspettavo in realtà il riferimento a Sepultura. Io gli ho detto: guarda, in realtà sono una componente fondamentale del nostro... No, Refuse Resist, che è scritto Refuse / Resist, l'abbiamo ripreso per uno dei brani di questo disco, che è Divino Maraviglioso, che non è scritto così in originale, ma noi l'abbiamo scritto Divino / Maraviglioso, proprio per omaggiare Refuse Resist. Dai, allora vi omaggiamo con l'ultimo brano, che appunto praticamente ci dedica Federico Fragasso, che ringrazio ancora di essere venuto. Grazie, come a te. Come la sua, proprio il suo, appunto, il suo primo brano di musica brasiliana, poi alla fine. È così. Che ha mai sentito, come se tutto fosse partito da qua, diciamo. E noi invece chiudiamo. Ciao da 8 Hertz, Radio Wombat, ciao a tutti, grazie ancora. E speriamo di rivedersi presto con qualcos'altro. Succederà. Succederà. Ciao, e loro Sepultura e parte con il cuore del figlio che ancora Zion. Era nato nella pancia di sua mamma. Buon ascolto, chissà se si sente, sì. Ciao. Yeah.